Linee d'ombra di Matteo Caccia. Questo è l'appuntamento del sabato di Linee d'ombra. Noi ogni fine settimana in questa mezz'oretta vi restituiamo la parte finale di ogni puntata, di ogni giornata, dal lunedì al venerdì di Linee d'ombra. Quella parte finale è caratterizzata da una storia seriale. È una storia seriale che appunto è una storia, è un long form, direbbero quelli che ne sanno e che masticano l'inglese. Che racconta un'unica storia in diversi episodi. In questi mesi abbiamo raccontato delle storie legate ai vizi capitali. Ormai però Linee d'ombra ha preso un'altra via, che è quella un pochettino più ampia, della narrazione più ampia legata a storie di confine. E questa storia inaugura di fatto la nuova serialità di Linee d'ombra, con una storia che racconta davvero di un confine, che è il confine che stiamo vivendo adesso, della linea d'ombra che stiamo attraversando esattamente in queste settimane, esattamente in questi mesi, perché la storia di una coppia che si ammala ai primi di marzo e scopre di avere la febbre, comincia a pensare all'ipotesi del coronavirus e quando comincia a pensarci comincia nel frattempo anche a scacciare quel pensiero, perché dice ma no, sarà la solita influenza, ma purtroppo così non sarà, durerà 3 settimane e tutta la storia che vi racconteremo ci porterà da casa loro in ospedale e poi di nuovo a casa. Io in teoria no, perché io li avevo tutti e due negativi, quindi passati 14 giorni io sarei finito. Però a questo punto, essendo rimasta di nuovo lui, non lo sa nessuno, non lo sa neanche loro che fare. Quindi poi vedrò, ne parlerò magari a maternità, se magari fare un'analisi del sangue, vedere gli anticorpi. Mi pare non lo sappiano tanto neanche loro, però fino a lì va bene, nel senso che purtroppo è esploso così e non ne sa niente nessuno. Io mi chiamo Irene, mio marito Francesco. Noi ci siamo conosciuti all'università, abbiamo studiato tutti e due ingegneria a Firenze. Da allora stiamo assieme, sono passati 26 anni. Dopo l'università ci siamo sposati e abbiamo sempre dato per scontato di avere figli, ma gli anni passavano e i figli purtroppo non arrivavano. Dopo tante peripezie, tante visite, comuni a tutti quelli che si trovano in questa situazione, abbiamo fatto richiesta per l'adozione. A quel punto però è arrivato Giovanni, il nostro bambino che oggi ha 8 anni e mezzo. Dopo la sua nascita ci abbiamo riprovato, per qualche altro anno abbiamo cercato di avere un secondo bambino, ma niente, non ne venivano. E a quel punto si è detto basta, siamo troppo in là con l'età, basta, fine così, già ne abbiamo uno, siamo molto felici. E quindi niente, si lavora, fa una vita normalissima, lavoriamo tutte e due e quindi facciamo una vita del tutto regolare, insomma, con tutto quello che riguarda il lavoro. E quindi niente, normale, finché io adesso ho 48 anni, a febbraio ho compiuto 48 anni, mio marito 50 e a settembre, incredibilmente, ho scoperto di aspettare un bambino. Quando l'abbiamo saputo è stato bellissimo, però anche sconcertante. Siamo felici per noi, però siamo preoccupati per lui, perché per come la vedo siamo davvero troppo, troppo grandi. Però è arrivato e certo non abbiamo pensato a mandarlo via. Da settembre abbiamo vissuto sospesi e increduli, sospesi perché i primi mesi sono sempre un po' a rischio e poi con la mia età e con i miei trascorsi lo sono ancora di più. I primi mesi sono trascorsi cercando di non pensarci troppo, visto tutto quello che poteva accadere. E poi però, passati quei primi mesi dove tutto è andato bene, è iniziata una fase diversa. Io all'inizio di quest'anno ho preso un'influenza, ma appena l'influenza passa a me, si ammala mio marito. Ma io tutti gli anni prendo l'influenza, soffro di mal di gola quasi per tutto l'anno e sono un po' cagionevole di salute in generale. Lui però no, è sempre stato uno sportivo e di solito non si prende mai nemmeno un raffreddore. Francesco lavora per una società di ingegneria che ha sede anche a Milano e va e viene da Milano molto spesso, oppure molti suoi colleghi di Milano vengono a Firenze per incontrarsi per lavoro. E negli stessi giorni in cui a lui sale la febbre, altri della sua equipe si ammalano. Abbiamo ipotizzato subito che potesse essere il coronavirus, ma senza averne la certezza. E quindi niente, io prima ho avuto l'influenza per conto mio e poi non ho fatto in tempo a guarire di quella e lui si è ammalato all'inizio di marzo, i primi di marzo, e dopo pochi giorni febbre altissima e stava male e poi dopo pochi giorni mi sono ammalata anch'io, stessi sintomi, mal di gola, tosse, insomma, le cose i sintomi standard che si riferisce sempre con questo virus. Noi fino a lì, io chiaramente si sentivano le notizie alla televisione, però che si doveva fare? Io anche a lavorare, soprattutto per il fatto che ero incinta, cercavo di stare magari un po' a distanza dalle persone, però non è che portassi la mascherina e comunque in casa, io tanto l'ho presa da lui, non è che stavo a distanza qui, no, assolutamente. Niente, quindi sì, francamente ci si è pensato quasi subito come ipotesi, ecco, non come certezza. A Francesco è venuta la febbre il 6 di marzo. Ci abbiamo pensato da subito, ma abbiamo anche cercato di non farlo, in realtà, di non pensarci. Eppure ogni cosa tendeva a riportarci al nostro sospetto. Dal momento che la febbre di Francesco non cessava, ho chiamato il medico di base, ma mi ha risposto che assolutamente lui non poteva venire a casa perché non aveva i dispositivi di protezione. Io non mi posso ammalare, mi diceva, e il protocollo dice di curare via telefono e assolutamente non posso venire di persona. Mi è parso strano, però mi sono mostrata comprensiva. Del resto un medico senza protezioni si ammalerebbe di sicuro e posso capire che un medico serva sano in questi casi, ovviamente. Eravamo già intorno al 10 marzo, ricordo di aver pensato che qualcosa avrebbero potuto avere a disposizione a quel punto, però non ci ho dato troppo peso. Al telefono gli ha prescritto le stesse cose che si prescrivono di solito, un antibiotico di copertura, un po' di cortisone per la tosse. Intanto i giorni passano e Francesco nel frattempo perde sia l'olfatto sia il gusto. Noi non sappiamo che anche questi sono sintomi del Covid-19, piuttosto siamo preoccupati perché la sua febbre, anche a distanza di giorni, invece di calare, grazie alle terapie, aumenta. Non ce la fa nemmeno più ad alzarsi dal letto. Dorme praticamente tutto il giorno e poi tutta la notte. È chiaro che la situazione non sta migliorando, al contrario, sta peggiorando. Io passo le giornate al telefono, chiamo tutti, almeno che vengano a fargli il tampone, ma niente. E dopo 5 giorni mi ammalo anche io. Quando poi mi sono ammalata anch'io, ho gli stessi sintomi, nello stesso modo, è diventata quasi certezza. Abbiamo immediatamente mandato il bambino, anche perché non eravamo in condizioni di accudirlo, da mia sorella, per fortuna. Finché era ammalato solo Francesco, si era autoconfinato in camera sua, camera e bagno, e stava lì. Quando è venuta la febbre alta anche a me, il primo pensiero è stato per Giovanni, ovviamente, nostro figlio. Anche per lui era diventata una situazione pesante, con tutti e due che stavamo male. E poi chi l'avrebbe accudito? Anche nelle cose banali, come fargli da mangiare o vestirlo. Ho chiamato mia sorella in tutta fretta e le ho chiesto di venirsela a prendere a casa e mettersi in quarantena, perché a quel punto anche Giovanni sarebbe potuto essere contagioso e fonte di contagio. Le ho detto di non andare dai nostri genitori, che sono anziani, ma non potevamo far diversamente. Ho preparato la valigia di Giovanni e quando mia sorella ha suonato al cancello, l'ho mandato da lei. L'ho mandato dal suo valigino giù per le scale, è andata via, perché io non ho mai fatto entrare nessuno in casa. A quel punto non è uscito lui. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country, source for anger. Passavo le giornate al telefono a chiamare tutti i numeri che davano, tutti per avere, per, almeno che venissero a fare il tampone, per capire se era quello, di andare in ospedale. Ho cominciato a chiamare il 118 e l'unica domanda, e lì ho sicuramente sbagliato io, perché dovevo dire una bugia,

Una volta arrivato al pronto soccorso, il personale lo ha accolto con grande capacità. Un medico gli ha detto subito, ancora prima di averne la certezza del tampone, che era stato colpito da una polmonite da Covid, per il tipo di polmonite che era. Gli ha detto anche che era già piuttosto avanzata e gli ha fatto chiaramente capire che sarebbe stato meglio se fosse arrivato prima in ospedale. Ma prima di procedere al ricovero, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Careggi di Firenze, doveva aspettare il risultato del tampone. Prima di metterlo in camera con qualcuno che era già ammalato della stessa malattia, dovevano essere sicuri, insomma. Quindi lui poi è stato fino alle 3 di notte, una cosa del genere, lì al pronto soccorso, e poi l'hanno portato fortunatamente a malattie infettive a Careggi, a Firenze. Dico fortunatamente perché poi, almeno per noi che non siamo medici, insomma, ci è sembrato un reparto veramente con persone, con medici, infermieri, OS, chi faceva le pulizie, tutti, persone gentili, disponibili, preparate, attenti, quindi lì davvero c'è stata, è stata una svolta. Io nel frattempo a casa non stavo bene, continuavo ad avere la febbre, la tosse, cominciavo ad ansimare. Anche se io tendevo a dare la responsabilità della mia respirazione affannosa al pancione e alla preoccupazione per Francesco. Lui era andato via, ero rimasta a casa, ero da sola e sentivo che stavo peggiorando. Non era facile per me capire poi quanto il mio peggioramento fosse psicologico o reale. Ma il giorno dopo la mia dottoressa di base, che è diversa da quello di Francesco, sulla base di quello che era successo a lui, mi ha detto «Ti chiamo io il 118 e vai all'ospedale, ricoverati anche tu, che sei anche incinta». Ho pensato che anche il mio ginecologo lavorava nello stesso ospedale e sarebbe potuto risultare utile, e ho pensato che fosse una buona idea. Così, dopo un giorno, è arrivata sotto casa un'altra ambulanza e anche io mi sono ricoverata. Everything turning the wrong way round, and I don't know what love would be, but if we stop dreaming now, Lord knows we'll never. Io sono andata sul 118 e purtroppo ho trovato un'operatrice, insomma, per paura o per protocollo di nuovo, non lo so. Comunque non mi ha fatto prendere niente. Io mi ero preparata due pigiami, cioè, sai, ciabatte, quelle tre cose, uno zainetto, niente, non ho voluto che prendessi niente. L'ambulanza per il mio ricovero è stata decisamente più facile da ottenere rispetto a quella per mio marito, ma la situazione è precipitata in maniera anche comica subito dopo. L'infermiera, evidentemente stanca e spaventata dalla situazione, mi ha imposto di non prendere niente a casa, di non portarmi dietro niente, dicendomi che tutto quello che avevo a casa era contaminato.